America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Prendiamoci una pausa dalla corsa alla Casa Bianca, dalle turbolenze, volatilità di mercato, dalla battaglia per la successione di Scalia, dai bombardamenti russi in Siria, contro gli accordi, tra l'altro, che erano stati sottoscritti a dicembre. Ecco, cerchiamo di dimenticare tutte queste turbolenze, perché ieri, festa di tutti i presidenti, gli americani sono concessi una distrazione musicale. Noi, 4 giorni di Sanremo, loro 3 ore di Grammys Award, straordinari, 58esima edizione, sono gli Oscar della musica, e questo spettacolo è appena finito ieri notte allo Staples Center di Los Angeles. Partiamo con Taylor Swift, Out of the Woods, tratto dal 1989, che ha aperto la serata. Sentiamo. Ecco, avete sentito Taylor Swift, bellissima, biondissima, labbra di un rosso vermiglio. Devo dire, era vestita anche in modo molto particolare, fasciata con questo vestito attillatissimo, nero con paillette luccicanti e con uno spacco che andava dall'ascella fino a sotto il ginocchio. Il suo disco è stato premiato come Best Pop Vocal Album e soprattutto come Album dell'anno, quindi ha avuto 2 premi, ed è anche la vincitrice morale in questa serata, perché c'erano stati degli attacchi di Kanye West, l'aveva attaccata questo cantante afroamericano rap nell'album Life of Pablo, dicendo: quella puttana Taylor deve tutto a me, that bitch, diceva. Ecco, questa cosa naturalmente ha creato un'enorme polemica, e ieri c'è stata la risposta durissima di Taylor Swift, che ha appena 25 anni, pensate, giovanissima, quando ha ritirato il premio. Sentiamola. I want to say to all the young women out there, there are going to be people along the way who will try to undercut your success or take credit for your accomplishments or your fame. Ecco, Taylor Swift molto emozionata dice: questo è per le giovani che si faranno strada, sono la prima donna a vincere 2 album dell'anno, e sappiate voi ragazze che troverete sempre qualcuno lungo la vostra strada che cercherà di ostacolarvi, di prendersi il merito per quello che avete fatto e per il vostro successo, ma se andrete avanti lungo la strada che vi siete costruita saprete che dovrete tutto soltanto al vostro lavoro e all'appoggio di coloro che vi vogliono bene. Ecco, nel complesso è stata una serata eccitante, densa di suspense, come appunto questa dichiarazione della Swift, una serata super prodotta, musica live di altissimo livello. Ma partiamo dall'inizio col presentatore della serata, per il 5º anno consecutivo, pensate, James Todd Smith, conosciuto come LL Rick Cool J, un rapper, un attore statunitense afroamericano, e devo dire che durante tutta la serata gli afroamericani hanno giocato un ruolo più piuttosto importante, quasi una risposta agli Oscar che si terranno il prossimo 28 febbraio, che invece sono stati oggetto di polemiche per l'assenza di candidati di colore ai vari premi. Per i Grammys non è stato così. And the Grammy goes to Pimp a Butterfly, Kendrick Lamar. Ecco, uno dei più premiati della serata, Kendrick Lamar, tra l'altro uno dei cantanti preferiti di Barack Obama, ha vinto il miglior album rap con To Pimp a Butterfly, Proteggere una farfalla, e ha dedicato il suo Grammy all'hip hop, This is for Hip Hop, ha detto, e aveva 11 nomination, ha avuto altri 4 Grammy ieri sera, Best Rap Performance, Best Rap Song, Best Rap Collaboration con Bilal Thundercat e Anna Wise. Ma vi dicevo, il tema afroamericano ha dominato anche con alcune provocazioni. Sentiamo questa esibizione di Blacker the Berry, sempre di Kendrick Lamar, una performance politica. Il cantante entra sul palco in catene e c'è un falò di legna che brucia alle sue spalle, un vero falò tra l'altro, sul palcoscenico a simboleggiare le proteste di strada in America, una canzone di denuncia che vuole sottolineare come il razzismo in questo paese non è affatto risolto. Sentiamo. I'm the biggest hypocrite of 2015. 19. Once I finish this, if you listen, then sure you will agree. Been feeling this way since I was 16. Come to my senses. You never liked this anyway. Ecco, c'è stata anche un'esibizione di The Weeknd, cantante afroamericano, anche lui, devo dire, aveva un'acconciatura da fare invidia a quella di Donald Trump. Rasato alle basette intorno alle orecchie, poi questi capelli invece cotonati che gli salivano lungo la testa, raccolti in un caschetto che era alto almeno 40 centimetri, che poi gli ricadeva sulla fronte e con il profilo di un'onda, come se fosse un'onda enorme, un'onda da surfers, di quelle che vediamo nell'Oceano Pacifico. Sentiamolo, In The Night. All alone she was living in a world without an end or beginning. Baby girl was living life for the feeling, but I don't mind. Uno dei premi, devo dire, che mi piace di più è quello per il miglior album country western. Ha vinto Chris Stapleton con The Travelers. Sentiamo. And the Grammy goes to Traveler, Chris Stapleton. C'è stato anche un collegamento esterno con Stephen Colbert, conduttore di uno dei programmi più seguiti in televisione, un collegamento dal Richard Rogers Theater a New York, dove si rappresenta a Broadway lo spettacolo di maggior successo in questo momento in città, Hamilton, al quale tra l'altro dovrò dedicare una puntata, perché pensate, è tutto esaurito fino a dicembre. Sentiamo questa interpretazione live da Hamilton, che ha vinto il Grammy come Best Musical Theater Album. How does a bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman, dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by Providence, impoverished and squalor, grow up to be a hero and a scholar. Uno dei momenti più emozionanti della serata dei Grammy Awards, il premio alla carriera, quest'anno è andato a Lionel Richie, è stato celebrato da, pensate, John Legend, Demi Lovato, Luke Bryan, Meghan Trainor. Ognuno di questi grandi cantanti ha interpretato una sua canzone con il gran finale, dove lo stesso Lionel Richie sale sul palcoscenico e insieme cantano, beh, All Night Long. Non poteva mancare un'interpretazione di Adele, ce n'è stata un'altra, Justin Bieber. Sam Smith annuncia Best New Artist, ecco il premio al miglior nuovo artista, andato a Meghan Trainor. La cantante ha capelli rossissimi, appena 23 anni, di Nantucket, isoletta al largo di Boston, e in lacrime. Sentiamo. Ecco, poi il ricordo, naturalmente c'è il ricordo di tutti coloro che ci hanno lasciato, sono in molti nell'anno passato, non posso elencarveli tutti, ma quello più importante, uno dei più importanti è stato David Bowie, e Lady Gaga gli ha reso omaggio, magnifica, all'apice del suo successo come icona della musica americana. Appena una settimana fa, tra l'altro, ve l'ho proposta, c'era stata una delle migliori interpretazioni dell'inno americano al 50° Super Bowl, arriva sul palco, anche lei capelli rosso fuoco, e per 5 minuti incanta la platea cambiando vestiti al volo e facendo un medley di varie canzoni. Sentiamola. This is ground control to Major Tom. You really made it great. And the papers want to know who shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. È stata anche un'interpretazione degli Hollywood Vampire con presenza d'eccezione di Johnny Depp come chitarrista. Gran finale con Beyoncé, sale sul palco per presentare il disco dell'anno, Uptown Funk. Trionfano Mark Ronson e Bruno Mars, sentiamoli in Uptown Funk. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wilding, living it up in the city. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, e non vi ho ancora detto qual è stata la canzone dell'anno. La canzone dell'anno di Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall less. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!